Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A discutere l'annuncio di Renzi del cosiddetto bonus bebè da 80 euro. Intanto i sindacati preparano la manifestazione del 23. Dentro un paio di giorni il giudizio dell'Europa sulla manovra. La Turchia annuncia: consentiremo ai curdi di passare il confine per arrivare a Kobane. Gli americani inviano armi ai combattenti. Confessa l'uomo che ha ucciso la sua compagna in un appartamento nel centro di Milano. L'aveva già picchiata 2 mesi fa. Vanno a giudizio gli ex consiglieri regionali piemontesi coinvolti nell'inchiesta sui rimborsi, tra loro anche l'attuale vicepresidente della regione e un assessore. Decine di comuni italiani colpiti da un attacco hacker, migliaia di documenti presi letteralmente in ostaggio. Pagateci in bitcoin per riaverli, è il messaggio. Valentino Rossi trionfa in Australia, 35 anni e non sentirli come i 38 di Totti, il segreto della longevità sportiva in un cambio radicale di preparazione. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti e ce n'è una di notizia appena battuta dalle agenzie, è stata depositata questa mattina negli uffici di un notaio di Piombino l'offerta vincolante per l'acciaieria Lucchini, arriva dal gruppo Algerino Cevital, vedremo se ci saranno sviluppi su questo naturalmente, ma noi in apertura parliamo della legge di stabilità e del nuovo annuncio di Renzi sugli 80 euro come bonus bebè. La CGIL intanto prepara la manifestazione di giovedì, ma a questo arriveremo tra un attimo. Innanzitutto il punto sulla manovra. 80 euro al mese per ogni nuovo nato dal 1 gennaio 2015 e per 3 anni, con un tetto di reddito fissato a 90.000 euro. Una misura che alle casse dello Stato potrebbe costare 500 milioni di euro nel 2015 e arrivare a 3 miliardi nell'arco complessivo dei primi 3 anni di introduzione. Questi primi calcoli dopo l'annuncio del Premier di un bonus a favore delle neomamme. La mossa a sorpresa arriva durante il salotto di Barbara D'Urso, un'intervista a 360 gradi in un clima estremamente informale. Un successo in termini di ascolti, a giudicare almeno dai dati diffusi sui social e rilanciati dal portavoce del Premier, la trasmissione sarebbe stata seguita da 2,3 milioni di spettatori. Un'occasione anche per tornare a difendere la legge di stabilità e lanciare una nuova stoccata alle regioni critiche sui tagli. Sono arrabbiate, ma gli passerà, dice Renzi. E poco fa la replica del presidente delle regioni Chiamparino: noi non ci rifiutiamo di fare i tagli, ma stiamo lavorando affinché i risparmi siano compatibili con l'erogazione dei servizi oltre una certa misura non si può andare. Oggi la legge di stabilità arriva sul tavolo di Napolitano, prima dell'approdo in Parlamento. Il governo punta comunque in alto, secondo il ministro dell'economia Padoan. Con le nuove misure si creeranno 800.000 nuovi posti di lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo al punto proprio dai sindacati in diretta. Andrea Viali, Andrea. Sì, buongiorno. Lavoro, dignità, uguaglianza per cambiare l'Italia. È questo lo slogan che è stato scelto dalla CGIL per la manifestazione nazionale, manifestazione in programma sabato a Roma. Il sindacato di Corso Italia torna a Piazza San Giovanni per dire no alla legge di stabilità, ma anche al Jobs Act del governo. Nella capitale sono attesi 2.300 pullman e 7 treni speciali. Non si è voluta sbilanciare sul numero dei partecipanti la leader della CGIL Camusso, che poco fa ha presentato il programma di questa manifestazione, ma sentiamo le sue parole. Siamo molto convinti che il 25 ottobre sarà una grande manifestazione, come abbiamo detto in molte occasioni, l'inizio di una stagione di mobilitazione, perché noi non ci rassegniamo all'idea che la strada per uscire dalla crisi sia quella della riduzione dei diritti e di una prospettiva con meno diritti per tutti coloro che oggi non sono nel mondo del lavoro. Così Susanna Camusso, ma in queste ore a contestare la legge di stabilità dobbiamo dire che non è soltanto la CGIL, ad alzare i toni è anche il segretario generale aggiunto della UIL, Barbagallo, che è indicato come probabile successore di Angeletti. Bene, Barbagallo ha definito inaccettabile il nuovo blocco del contratto degli statali previsto dalla legge di stabilità e ha minacciato di non tenere più conto dei limiti previsti per gli scioperi nel settore pubblico. Simone. Grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. E dovrebbe arrivare in settimana il giudizio della Commissione Europea sulla manovra, mentre oggi è il primo giorno della prima parte degli interventi della Banca Centrale Europea sui mercati. Sentiamo. A Bruxelles la manovra è ancora al vaglio dei tecnici. Considerando che le zone d'ombra sono più di una, se arriverà solo una lettera con la richiesta di chiarimenti sarà un successo. Secondo indiscrezioni di stampa, la missiva dovrebbe essere recapitata a Palazzo Chigi entro mercoledì. Se così sarà, vorrà dire che avrà vinto la linea più morbida del neo presidente Juncker. opposta alla linea dell'uscente Barroso, che pare vorrebbe bocciare la manovra. Il nodo però è sempre lo stesso, la decisione del governo italiano di risanare il disavanzo strutturale nel 2015 solo dello 0,1%, almeno mezzo punto l'impegno per tutti gli stati, la metà quello che l'Italia sembrava aver contrattato, ma adesso siamo a meno della metà e nonostante le circostanze eccezionali, recessione e deflazione è dura da far passare in commissione. Renzi e Padoan ne sono consapevoli, per questo hanno accantonato nella manovra fondi per far fronte a ulteriori richieste di risanamento del disavanzo, anche se sperano di utilizzarli in altre misure di sostegno all'economia, che da oggi può contare anche sugli acquisti da parte della BCE di obbligazioni garantite, acquisti volti ad allontanare i rischi di deflazione e incentivare la crescita del vecchio continente. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mercati negativi intanto, col FTSE MIB che cede lo 0,6%, il FTSE All Share altrettanto, anzi mezzo punto percentuale. Torneremo a parlarne come sempre nell'appuntamento delle 13:30. Imputazione coatta per una decina di ex consiglieri regionali del Piemonte nell'inchiesta sui cosiddetti rimborsi facili. Il servizio. Guai in arrivo per il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino. 10 persone per cui la procura di Torino aveva già disposto l'archiviazione nell'ambito della vicenda giudiziaria su rimborsi facili verranno invece rinviate a giudizio. Si tratta di 2 assessori della giunta piemontese, Aldo Reschigna e Monica Cerutti, e altri 8 consiglieri della passata legislatura, tra cui l'attuale segretario regionale del PD, Davide Gariglio. L'inchiesta ribattezzata Rimborsopoli vede coinvolti anche quasi tutti gli ex consiglieri della legislatura di Roberto Cota. Il GIP Roberto Ruscello ha respinto le richieste di archiviazione, ordinato l'imputazione coattiva e i PM hanno da ora 10 giorni di tempo per formulare il capo di imputazione e chiedere il rinvio a giudizio. Archiviazione confermata invece per Mercedes Bresso, Gianna Pentenero, attuale assessore regionale al lavoro, e altri 4 consiglieri ed ex: Nino Boeti, Giuliana Manica, Rocco Muliere, Gianni Rondelli. Ronzani. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fuori dal Movimento 5 Stelle i contestatori del Circo Massimo. Sono 4 attivisti del Movimento che, lo ricorderete, erano saliti sul palco. Giorgio Filosto, Orazio Ciccozzi, Pierfrancesco Rosselli e Daniele Lombardi. Lo ha annunciato Beppe Grillo sul suo blog. Passiamo all'estero, alla situazione in Siria e a Kobane, come sempre tra Siria, al confine tra Siria e Turchia, dove, come sapete, come vi abbiamo raccontato, i combattimenti sono molto intensi. Oggi la Turchia è tornata ad annunciare che consentirà ai curdi, ai peshmerga curdi, di passare il confine per arrivare a Kobane, mentre gli americani inviano armi ai combattenti. Saluto Alberto Negri del Sole 24 Ore, inviato. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Come abbiamo già detto da questi microfoni, tu sei stato a Kobane. In realtà la situazione che hai trovato, insomma, di atteggiamento delle forze di polizia curde nei confronti di chi voleva, turche, nei confronti di chi voleva passare il confine era ben diverso. Ma innanzitutto anche questa notizia è parziale, nel senso che è stata già annunciata 3 giorni fa, alla fine della scorsa settimana. E poi attenzione, riguardo i curdi siriani, cioè soltanto i curdi che appunto provengono dalla zona di Kobane, che erano scappati via, che adesso, a cui adesso è consentito ritornare indietro. Una mossa dei turchi fatta in realtà sotto fortissime pressioni dagli americani. Ma i turchi bloccano ancora, per esempio, i combattenti peshmerga di origine turca, quelli del PKK, che sono peraltro affiliati ai curdi siriani che stanno a Kobane perché ritenuti un'organizzazione terroristica. In realtà i turchi fino ad oggi, fino a quando hanno potuto, hanno bastonato i curdi, e questo califfato in qualche modo ha fatto gioco anche alla politica turca in quell'area di tenere i curdi fuori da ogni tentazione di poter instaurare una zona autonoma o addirittura indipendente. Grazie ad Alberto Negri per questi dettagli e queste spiegazioni. Noi veniamo alla cronaca italiana, iniziando dal caso di un'uccisione di una donna in centro a Milano. È stato il suo compagno che già in passato l'aveva picchiata. Ha usato un elastico da portapacchi per strangolarla. Un uomo di 42 anni ha ucciso così la sua fidanzata e convivente al culmine di una lite. Nell'appartamento al quarto piano di un palazzo in Porta Romana erano frequenti i litigi, le grida e la violenza. Solo un paio di mesi fa, l'ultima segnalazione per percosse da parte dei vicini, che avevano incrociato la donna, anche lei 42enne, ferita e sanguinante sul pianerottolo. Ieri però non ha avuto il tempo di fuggire ed è rimasta vittima del compagno. Dopo l'omicidio l'uomo ha lasciato l'appartamento, ha chiamato un amico e poi il padre per raccontare l'accaduto e chiedere consiglio. Gli agenti l'hanno ritrovato seduto su una panchina vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio, non proprio vicino alla sua abitazione. Forse voleva scappare, ma lui per primo avrà capito che una fuga sarebbe stata inutile. L'appartamento adesso è sotto sequestro e oltre all'elastico, la scientifica ha portato via anche uno smartphone. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scontri a Bologna e scontri a Torino, ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, a questo è dedicata oggi l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Torino e Bologna sono luoghi dove storicamente sono presenti i collettivi e i centri sociali dell'autonomia. Tra venerdì e sabato in queste due città si sono registrati violenti scontri con le forze dell'ordine. Nel capoluogo piemontese le proteste contro il vertice europeo sul lavoro hanno portato al ferimento di 3 agenti di polizia, al fermo di 3 manifestanti. È accaduto che dal corteo della FIOM un gruppo di 300 tra anarchici e autonomi hanno ingaggiato alcune ore di guerriglia. Il sindacato critica la polizia per l'uso eccessivo di lacrimogeni e la polizia si difende dicendo che gli addetti all'ordine pubblico sono stati attaccati con sanpietrini e altri oggetti contundenti. Poche ore dopo la scena si sposta nel centro di Bologna, dove si sono riviste scene da marzo 1977. Qui la strategia è stata diretta perché il corteo voleva impedire l'assembramento di militanti di Forza Nuova e ne è scaturita una guerriglia estesa con un bilancio grave, 19 feriti tra poliziotti e carabinieri. Ci si chiede se questi due fatti sono da ritenere episodi isolati oppure rappresentano davvero il ritorno di una nuova stagione di violenza politica. La radicalizzazione dello scontro sociale è in atto da mesi e con ogni probabilità l'assenza di una forte risposta politica potrebbe aumentare lo spazio di visibilità dei gruppi più intransigenti e meno inclini al dialogo. Ma è altrettanto certo che proprio in momenti come questi la gestione delle piazze dovrebbe essere meno superficiale. Infatti sabato pomeriggio a Milano, mentre a Bologna le strade bruciavano, nessun contatto c'è stato tra una grande manifestazione della Lega e di Casa Pound contro gli immigrati e un altrettanto grande corteo di antifascisti. E in quel caso il merito è certamente stato degli organizzatori delle due iniziative, ma anche dal questore di Milano Luigi Savina e del prefetto Francesco Paolo Tronca, che hanno adottato la linea del dialogo. Ci sarà un anno di tempo fino al 2015 per elaborare il testo scaturito dalle 2 settimane di lavori del Sinodo straordinario sulla famiglia, un documento che ha visto una spaccatura tra i cosiddetti tradizionalisti e i progressisti e che tuttavia su alcuni punti ha ottenuto la maggioranza assoluta. Inaugurando il sinodo straordinario, Francesco aveva chiesto franchezza nel dibattito ed è per questo che ha voluto che il testo integrale della Relatio Sinodi, con tanto di votazione punto per punto, fosse pubblicato integralmente e valesse da base per il sinodo ordinario del 2015. Un testo che sì non ha ottenuto la maggioranza qualificata dei 2/3 e ha evidenziato profonde divergenze tra chi chiedeva maggiori aperture, ad esempio su divorziati risposati e unioni omosessuali, e chi difendeva lo status quo. Tensioni che si sono riacutizzate anche in piazza San Pietro ieri, quando al termine della messa per Paolo VI, i cardinali Müller, prefetto della dottrina della fede, e Burke, rimosso recentemente dalla guida della segnatura apostolica, cosiddetti tradizionalisti, non si sono alzati per salutare il Papa. Un testo che tuttavia con la maggioranza assoluta su molti punti ha messo in luce la Chiesa, secondo Francesco, capace di affrontare con collegialmente, senza remore, temi fino ad ora impensabili. Il Papa guarda ora avanti al decisivo sinodo ordinario del 2015 e se invita a non avere paura delle novità, mette in guardia da 2 rischi, quello dell'irrigidimento ostile e del buonismo distruttivo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport adesso, ieri il ritorno alla vittoria di Valentino Rossi, inossidabile, ha scritto qualcuno, ma dietro questa permanenza ai vertici sua e di altri campioni, vedi Totti, c'è una preparazione specifica. A vincere nelle loro carriere decennali ci hanno fatto davvero l'abitudine. Più difficile anche per noi tifosi accettare l'idea che Valentino Rossi e Francesco Totti, per continuare a vincere, le loro abitudini abbiano dovuto cambiarle proprio in quest'ultimo spicchio della loro vita sportiva. Rivoluzioni copernicane per atleti che proprio attraverso schemi consolidati sono arrivati ai successi più grandi. Ma è lo sport moderno che impone il cambiamento, a prescindere quasi, o anzi a partire proprio dalla carta d'identità. Ecco allora che a 35 anni Vale Rossi, per stare in scia al ventenne Marquez, cambia capo tecnico, dieta, stile di guida e intensifica quel lavoro in palestra di cui non è mai stato troppo innamorato. E Totti, forse mai come quest'anno a 38 primavere, ha cominciato la stagione tirato al lucido, ancor più calato nel ruolo di leader giallorosso, desideroso di giocare sempre, ma pronto ad accettare il turnover imposto dall'età e da Rudy Garcia, che intanto però nel dubbio lo lancia sempre più spesso titolare. Insomma, anche nella terza età sportiva è d'obbligo saper cambiare per continuare nella più dolce delle buone abitudini. Vincere. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ha confessato questa mattina l'uomo che ha ucciso la sua compagna in un appartamento nel centro di Milano. L'aveva già picchiata 2 mesi fa. Tra poco torneremo a parlarne. Avevano occupato il palco del Circo Massimo anche per chiedere maggiore trasparenza nel Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo li ha espulsi. A discutere l'annuncio di Renzi del bonus da 80 euro per le madri dei neonati. La Turchia annuncia: consentiremo ai curdi di passare il confine per arrivare a Kobane. Gli americani inviano armi ai combattenti. Vanno a giudizio gli ex consiglieri regionali piemontesi coinvolti nell'inchiesta sui rimborsi, tra loro anche l'attuale vicepresidente della regione e un assessore. Massima fiducia nella magistratura, dice Chiamparino. Riapriamo parlando di legge di stabilità e di politica economica, o più che altro di nuova strategia all'evasione. Vi dedica ampio spazio l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, oggi in edicola. Abbiamo in studio con noi Giovanni Parente, che si è occupato di questa parte insieme ad altri colleghi. Allora Giovanni, ci dai un quadro di come gira questa nuova strategia per la lotta all'evasione? Ci sembra di capire che si prospetti un fisco più, aperte virgolette, gentile. Sì, il cambio di strategia è esattamente questo. Il fisco non dovrebbe essere più interpretato in maniera repressiva quando si tratta di fare lotta all'evasione, ma un po' più, come dire, di capacità di dialogare con il contribuente e capacità di dialogare con appunto chi non ha versato sufficientemente imposte o non ha dichiarato sufficienza, per poterlo in qualche modo convincere a rimediare spontaneamente. L'idea di fondo è quella di partire dalle banche dati già disponibili. Prima di tutto lo spesometro, ne abbiamo parlato tante volte qui a Radio 24. Lo spesometro è un meccanismo che nel tempo è cambiato, è diventato uno strumento per raccogliere tutti quanti i dati sulle fatture emesse soprattutto dal popolo delle partite IVA. Da attraverso l'incrocio dei dati bisognerebbe arrivare a determinare quelle che sono le situazioni di maggior rischio evasione. Le stime fatte dai tecnici nelle scorse settimane hanno evidenziato ad esempio che c'è un forte scartamento tra le cessioni intermedie che vengono fatte e poi le vendite ai privati cittadini. Quindi c'è una parte della catena dell'IVA che in qualche modo viene poi sottratta a tassazione da parte del popolo degli evasori. Questo spread, chiamiamolo così, spread di evasione, dovrebbe essere poi utilizzato per andare a focalizzare i soggetti a maggior rischio evasione e per invitarli a versare, a dichiarare di più. Come? Ecco, la seconda gamba della piano antievasione si poggia appunto su uno strumento che tecnicamente si chiama ravvedimento operoso, ma in realtà è la modalità attraverso cui il contribuente può ricredersi se non ha versato a sufficienza, avere in questo caso più tempo a disposizione pagando delle sanzioni per cui la riduzione sarà decrescente via via che passerà il tempo, e quindi in qualche modo rimettere a posto la propria situazione nei confronti del fisco. È un cambio di strategia da cui anche Rossello Orlandi qui a Mix24 ha detto di attendersi in 15 miliardi di recupero dell'evasione nel 2015, e quindi insomma il fisco ci punta forte da questo punto di vista. E speriamo che le cose vadano bene anche per i nostri conti. Tutti i dettagli sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Noi restiamo sul tema della politica economica. Saluto Maria Cecilia Guerra, che è senatrice del Partito Democratico, componente della minoranza, per così dire, del PD, ex viceministro con delega alle pari opportunità. Buongiorno senatrice, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno. La convince questa storia degli 80 euro per il bonus bebè? No, non mi convince assolutamente, non tanto perché sia della minoranza, ma proprio perché è concettualmente sbagliata, nel senso che noi siamo un paese che ha tantissimi strumenti di trasferimento monetario nei confronti delle famiglie, in particolare delle famiglie con i figli, le cito: l'assegno nucleo familiare, la detrazione per i figli, la detrazione per i nuclei con almeno 4 figli, l'assegno ai nuclei familiari con 3 figli, l'assegno di maternità, e sono tutti dati secondo criteri diversi. Quindi la prima azione da fare sarebbe valutare questi strumenti, coordinarli per renderli più efficaci. Spendiamo 15 miliardi, quindi aggiungerci altri 500 milioni pensati così in maniera abbastanza improvvisata mi sembra improprio, tanto più che gli strumenti che sono più finalizzati ai nuclei che hanno figli e che hanno difficoltà economica hanno una barriera d'accesso, cioè una definizione di reddito a disposizione per poter accedere che è molto più bassa dei 90 mila euro. Cioè, per avere ad esempio l'assegno per i nuclei familiari con 3 figli non bisogna superare un reddito di 23-24 mila euro, tanto per dare un'idea, e quindi mi sembra che sia un pochino spropositato dare dei soldi a chi si può permettere tranquillamente di avere dei figli e mantenerli con agio e non darli invece poi in misura sufficiente a persone che veramente sono in difficoltà. E per come mi sembra di aver capito che per come è formulata e per le classi di reddito a cui si rivolge, lei la ritiene una misura inutile sostanzialmente. No, sbagliata, perché quei 500 milioni ci farebbero molto comodo, ad esempio, per alleviare un po' la situazione. Noi abbiamo in Italia 1.400.000 minori in povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire che non, la famiglia in cui sono non è in grado di garantire un paniere di beni e servizi che possano essere considerati quelli che sono considerati quelli necessari per una vita dignitosa. 1.400.000 minori. Allora io credo che noi, se abbiamo pochi soldi e a quei 500 milioni, dovremmo indirizzarli prima di tutto a quei minori lì, non ai minori di una persona che abbia un reddito di 90 mila euro, che è veramente un reddito molto alto. In secondo luogo, avevamo iniziato, nei governi precedenti si era iniziata una misura di sostegno alla povertà, il sostegno all'inclusione attiva diretta specificamente alle famiglie con minori, che non trova finanziamento nella legge di stabilità. Quei 500 milioni andrebbero indirizzati lì. La caratteristica fondamentale era di non solo dare dei soldi, cosa che ovviamente a fronte di minori poveri è la prima cosa, ma anche di garantire dei processi di inclusione attiva, perché i minori che sono in povertà sono anche quelli che sono nelle famiglie dove più alto è il tasso ad esempio di dispersione scolastica. Allora, nella misura di cui le parlo e che è rimasta senza soldi in questo momento, si prevedeva che le famiglie che ricevevano i soldi garantissero anche l'assolvimento dell'obbligo scolastico, le visite pediatriche. Quindi il discorso del trasferimento monetario fine a se stesso è un discorso ad effetto, il famoso bonus bebè di Berlusconi, il bonus bebè che li abbiamo avuti praticamente dal 2007 fino adesso, dei bonus bebè che lasciano però le famiglie davvero in bisogno da sole, e quelle invece che non hanno bisogno gli arrivano dei soldi di cui insomma non ci sarebbe necessità. Grazie a Maria Cecilia Guerra, senatrice del Partito Democratico. Le auguro buona giornata e buon lavoro. Abbiamo parlato dei minori in difficoltà e anche di questo nella sua vita professionale si è occupato Fabio Roia, che è stato sostituto procuratore presso la Procura Ordinaria del Tribunale di Milano. Dal 1989 addetto al Dipartimento competente per i reati in danno di soggetti deboli e presidente adesso della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Dottor Roia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. La chiamiamo per una vicenda della quale la Procura di Milano si sta occupando, ma non lei specificatamente in realtà, ed è questo assassinio che c'è stato ieri praticamente nel centro. Un uomo ha ucciso la sua fidanzata strangolandola, e due mesi fa lei era stata salvata dai vicini dopo una nuova lite con violenza. Era stata di fatto trovata sanguinante dai vicini nell'androne. Non parliamo del caso specifico con lei, ma vogliamo parlare del caso generale. Io voglio capire questo: com'è possibile che a due mesi di distanza da un fatto di questo genere, da una violenza di questo genere, sia ancora possibile che avvenga un omicidio, che qualcuno chiama femminicidio con una parola che ormai è entrata nell'accezione comune? Purtroppo è un un'altra donna che viene uccisa, una ogni 3 giorni come media in Italia, è il più alto numero di cause di donne violente per causa violenta, le donne muoiono purtroppo per mano dell'uomo. Certo, è una cosa apparentemente inspiegabile, qui dovrà essere l'inchiesta a capire il perché, se è vero quanto riportano i giornali che c'è stato effettivamente un intervento della polizia, poi non si è dato corso ad una serie di misure di protezione che oggi esistono. Devo dire che noi oggi abbiamo un quadro normativo molto importante, molto bene articolato, in particolare è stata introdotta di recente nel 2013 la legge 119, cosiddetta appunto contro il femminicidio, che ha introdotto tutta una serie di misure a tutela della donna che è vittima di violenza domestica. Quindi qui bisogna capire, soprattutto in una città come Milano, dove c'è una rete di protezione che lavora da molti anni, dal 1990, e per rete di protezione intendo dire le case delle donne maltrattate, gli ospedali che sono sensibilizzati, la polizia giudiziaria che è stata formata, la magistratura che è specializzata in questo settore, un'avvocatura piuttosto sensibile e formata, come mai questi meccanismi di protezione non sono scattati? E le ipotesi potrebbero essere o che la donna non ha fatto denuncia, non ha inteso formalizzare questo tipo di denuncia, raccontando magari che quella volta che sono intervenuti i poliziotti in realtà era un episodio sporadico e non era l'ultimo di una serie di episodi, circostanza questa che potrebbe costituire un reato che si chiama maltrattamento in famiglia, che consente addirittura, anzi impone l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. E capire però, sempre secondo leggendo i giornali, perché tutti questi vicini che hanno sentito queste urla provenire non hanno fatto nulla, ammesso che sia così. Nel senso che, se posso, oggi c'è una misura particolarmente importante che, come dire, ha la finalità di capire i reati sentinella, per cui anche i vicini di casa, quando sentono urla provenire da un appartamento, possono segnalare la cosa al questore rimanendo anonimi, e il questore può avviare una istruttoria e fare un'attività di ammonimento nei confronti dell'agente violento. Questa è proprio una misura nuova introdotta dalla legge sul femminicidio. Ho l'impressione, dottor Roia, che, dato che questo non è il primo caso di questo genere che vediamo in Italia, cioè di violenze perpetrate nel tempo che poi sfociano nell'omicidio, che forse ci sono dei meccanismi che faticano ad innestarsi e a funzionare. Colpisce in particolare quello che diceva lei, cioè in una città come Milano, in particolare nel centro di Milano, insomma, che tutto questo non si sia innestato e non sia partito. Sì, ogni volta che c'è un fatto di questo tipo, in particolar modo che una donna viene aggredita o addirittura uccisa, è perché quello che noi chiamiamo la rete di protezione non ha funzionato in alcuni dei nodi di protezione, e quindi può essere o che non sia stata presentata denuncia, o che i vicini di casa non si siano allertati, o che gli operatori sanitari non abbiano letto la violenza domestica abituale attraverso i segni della donna, oppure perché, come molte volte accade, gli operatori di polizia o gli stessi magistrati abbiano sottostimato il rischio omicidario che poteva soggiacere e nascondersi dietro ad una storia di violenza. Le donne muoiono sostanzialmente per 2 casi. Il primo è perché la rete magari non funziona e non riesce ad agganciare in maniera esaustiva e protettiva la donna vittima violenza. La seconda perché viene valutato male il rischio omicidario di una situazione del genere. La ringrazio, grazie a Fabio Roia, magistrato al Tribunale di Milano, presidente della sezione misure di prevenzione appunto del Tribunale. Buona giornata, Roia. A voi, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Iniziamo da una appena battuta dalle agenzie: c'è allarme in una scuola di Colonia nel Nord Reno-Vestfalia in Germania per una sparatoria appunto all'interno di una scuola. La polizia ha confermato l'intervento con grande dispiegamento di forze, almeno 30 auto sono state mandate sul posto, non ci sono ancora ulteriori dettagli. Fa discutere l'annuncio di Renzi del bonus da 80 euro per le madri dei neonati, intanto i sindacati preparano la manifestazione del 23. La Turchia annuncia: consentiremo ai curdi di passare il confine per arrivare a Kobane. Decine di comuni italiani colpiti da un attacco hacker, migliaia di documenti presi letteralmente in ostaggio, pagateci in bitcoin per riaverli. Questo è il messaggio, ci arriveremo tra un attimo, intanto i mercati. Borse in diretta. Giornata negativa, meno 0,44% il FTSE MIB adesso, il FTSE OCER meno 0,42%. Isabella Tasso, Radio Cori, Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai vanno male le borse? Ma le borse sono soprattutto molto volatili, in assenza di novità gli investitori hanno scaricato un po' di titoli dopo i forti acquisti di venerdì, adesso cercano di ragionare senza trovare però una direzione. Parigi e Madrid sono piuttosto deboli, Milano perde un pochino di meno grazie soprattutto alla tenuta di alcuni titoli bancari e alla performance di Finmeccanica, Pirelli e Buzzi Unicem, che tengono abbastanza bene. Brevemente, singoli titoli da segnalare? Ma, come dicevamo, è volatile soprattutto il settore bancario, che è comparto maggiormente sotto osservazione in vista dei risultati dell'esame approfondito della Banca Centrale Europea attesi per domenica prossima. Il clima generale è di fiducia sul superamento dei test per le banche italiane, ma il mercato non nasconde nervosismi, qualche incertezza su singoli casi come il Monte dei Paschi, che continua a cedere un 2,7%, bene invece Banco Popolare, che sale di 1,03%. Mediobanca dello 0,6%. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Saluto Paolo Dal Checco, consulente informatico forense dello studio di FOB. Si occupa di sicurezza informatica. Buongiorno Dal Checco, benvenuto. Buongiorno, grazie. L'abbiamo chiamata perché vi state occupando voi di alcuni dei comuni, non sappiamo esattamente quanti, che sono stati colpiti da un tipo di attacco di hacker o di phishing, esattamente la definizione non è chiara, perché di fatto una volta aperto un determinato file che si trova nella mail e che arriva da un indirizzo apparentemente sicuro, i file dei computer dei comuni vengono letteralmente presi in ostaggio e arriva un messaggio che dice: o ci paghi in bitcoin oppure questi documenti ce li teniamo noi. È così che funziona? Esatto, se si scarica questo file che viene contenuto in un link di una mail ricevuta, parte un programma che cripta tutti i documenti presenti sul proprio computer e al termine della cifratura l'utente si vede un messaggio che dice: o paghi 400 euro entro 3 giorni oppure tra 3 giorni la cifra diventerà 800 euro. L'unico modo di pagare a riscatto è farlo tramite la valuta virtuale Bitcoin. Quanto voi state tenendo sott'occhio una cosa? Quanto sono riusciti a raccogliere questi hacker fino a questo momento? Allora, noi abbiamo identificato due dei conti che utilizzano, che nel caso dei bitcoin si possono considerare una sorta di IBAN, diciamo, per far capire a chi non è tecnicamente all'interno di queste informazioni. Questi due conti hanno raccolto per adesso 75.000 euro uno e pochi minuti fa 23.000 euro l'altro. E, oltretutto, essendo pubblici i conti bitcoin e le transazioni, anzi o meglio le transazioni bitcoin sono pubbliche, possiamo vedere anche in ogni istante quanti stanno pagando riscatto. Per esempio vedo che poco meno di un'ora fa qualcuno ha pagato $524. Un'ora e mezzo fa hanno pagato altri $600, quindi si vedono tutti i pagamenti che vengono fatti dalle vittime, e poi ogni qualche pagamento il delinquente si riversa la cifra su un suo altro conto Bitcoin, con cui poi farà un po' di mescolerà un po' le carte per evitare di essere tracciato. Avete traccia di quanti comuni siano coinvolti? Innanzitutto, quanti ne state assistendo voi e quanti comuni sono coinvolti? Allora, come assistenza diretta per adesso siamo sotto la decina, nel senso che ci hanno chiamati i comuni che ci conoscevano o che ci hanno trovati via internet. Da loro sappiamo che i comuni coinvolti sono molti di più, perché loro sono in contatto tra comuni e sanno che il comune vicino, il comune della regione di fianco, è stato anche lui coinvolto. Quindi ecco, sicuramente i comuni italiani noti sono alcune decine. Il problema è che non sapremo mai quelli che non hanno denunciato la cosa, non ci hanno chiamati, perché spesso i documenti criptati sono magari poco importanti, allora alcuni comuni lasciano perdere se reinstallano il computer. Allora, grazie a Paolo Dal Checco, consulente informatico forense dello studio di FOB, per averci dato questi chiarimenti. Un avviso ai dipendenti comunali, ai consiglieri comunali, a chiunque metta le mani in queste mail: il file arriva, la cosa arriva da un indirizzo insospettabile, c'è un file che si chiama compenso.pdf, in realtà è un file di esecuzione che crea esattamente questo problema. Quindi attenzione, se trovate questa mail, insomma, magari è un compenso vero, però insomma prima di tutto fate un bel controllo. Noi adesso torniamo alla cronaca con una vicenda della quale abbiamo parlato nei mesi scorsi, un imprenditore che aveva ucciso due suoi ex dipendenti che erano andati a chiedergli di essere pagati. Ebbene, questa mattina quell'imprenditore si è tolto la vita. Era accusato del duplice omicidio di due carpentieri kosovari, l'imprenditore 48enne di Fermo Gianluca Ciferri, che si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della sua cella nel carcere di Ascoli Piceno. Il 15 settembre scorso aveva ucciso due suoi ex operai che erano andati a chiedergli i loro stipendi arretrati, circa 20.000 euro richiesti più volte anche attraverso un contenzioso curato dal sindacato. Ciferri, appassionato d'armi, aveva raccontato di essere corso a prendere una pistola che teneva in garage quando si è visto minacciato dai due kosovari armati di picozza e di aver sparato perché in preda alla paura. Quando si è impiccato, l'imprenditore edile non era solo in cella, ma il suo compagno lo ha trovato verso le 4 di notte già morto. Sembra che Ciferri abbia lasciato una lettera, ma la notizia non è ancora confermata. Sul suicidio dell'imprenditore indaga ora la procura di Ascoli Piceno, che ha aperto un fascicolo e disporrà l'autopsia. Un'inchiesta interna al carcere verrà disposta anche dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria delle Marche, anche se Ciferri non aveva mai dato segnali che facessero temere un gesto autolesionista. Per questo era rinchiuso in una cella comune e non era sorvegliato a vista. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere torniamo al sinodo. Katia Caramelli ha intervistato anche il priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi. La Chiesa sul tema della famiglia è in ricerca, è come un cantiere, ci sono certamente delle piste che si aprono, non certo a livello dottrinale, ma a livello di atteggiamento, di pastorale nei confronti soprattutto di quanti hanno famiglie che non corrispondono al modello cristiano, e certamente su questo la Chiesa deve fare un cambio secolare, anche se solo di pastorale. Ieri, proprio guardando al cammino verso il sinodo ordinario, il Papa, durante la messa di beatificazione di Paolo VI, ha invitato a non avere comunque paura delle novità. È un uomo che vuole imprimere alla Chiesa la dinamica del Concilio Vaticano II, una dinamica che si era interrotta. Non a caso ha citato proprio Paolo VI e la sua intenzione di ascoltare il mondo contemporaneo e di non ritrarsi in posizioni di difesa o addirittura di cittadella. Lui conta molto sui processi che avvengono nel tempo e sui confronti nelle chiese locali tra cristiani di tutte le confessioni, tra cattolici di tutte le tendenze e tra pastori e fedeli. Lui conta molto che ci sia una maturazione e che non si abbia paura della novità, perché ripetere sempre le stesse cose anche nella pastorale significa rendere sterile il messaggio del Vangelo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sentiamo Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, la settimana scorsa devo dire è stata una delle più turbolente dal punto di vista dell'andamento di borsa, volatilità estrema. C'è stato un leggero recupero nel fine settimana, un minimo di stabilizzazione, e vedremo come le cose andranno questa settimana in America. C'è molta attenzione soprattutto per quello che potrebbe esprimere la Federal Reserve dopo dichiarazioni di James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis, che diceva come insomma la Fed sarebbe stata vigile e attenta, una dichiarazione che ha colpito perché Bullard è noto per essere invece un falcone, cioè che vuole una politica monetaria più restrittiva prima, senza dover aspettare molto più in là. Per cui vedremo come andrà questa settimana, ma vorrei raccontarvi oggi una storia che mi ha molto colpito, che coincide con un evento, come dire, di cronaca, e cioè l'apertura oggi 20 ottobre al Metropolitan Museum, il più importante museo del mondo,